studio. Chi è avanti? Danilo. Ciao Dani, buon anno, auguri. Grazie altrettanto anche a te. Tonio sono. Ah, ciao Arthur. No, non ti ho riconosciuto all'inizio. Allora, sto a posto? Come l'hai trascorso? Bene? Sì, sì, benissimo. Rilassato, senza nessun problema quest'anno. Ah, poi no, un po' di musica qua e via. Ah, qua c'è dentro il radio. Stavo aspettando qualcuno che mi hanno mandato un messaggio nel gruppo che doveva fare gli auguri in online e poi non senti nessuno. Silenzio radio proprio. Cioè io quando sono tornato dal lavoro accetto. Poi infatti mica ci sentiamo, invece non c'era nessuno alla pinguina. Ma che c'erano ancora tutti i gatti imbriachi? Uia uia. Forse se tutto va bene piove un altro po', da. E già la giuvita la pioggia. Ho vista. La vedo in diretta. Ma che no, che faccio lucernaio, ciò. E quindi è così. La vedo sempre, la sento sempre. Quando c'è il lucernaio sì. Perché ce l'hai sopra la testa. E la grandine che ha fatto l'altro giorno, non l'hai sentita? Tutto sento là qua, già gentisa ya. Un bel po' ne ha fatto. Ogni zocco. E tu pensa che quando la stava facendo di mattina la giubilata è tutta gatta tra voi. Mamma mia, non me ne fa vedere. Che da lì uno c'è. Va bene, c'è fuggito puro. C'è. Ma ti ho fatto un curo a rendere chi si bombolone in mano da 62, ma ti ho pigliato un bel deva. Non si degna da di te, se tiro in più. Brutto mostro di fame, gà. E tu pensa che noi che rimaniamo fuori tutto il giorno, acqua non acqua, neve o non neve, noi rimaniamo fuori e non è che ci dice grazie, rimanete bene un pochino a ripararvi, sì, domani. Pure lui è toccata a leva, toccata sempre a leva. C'è sempre, comunque sei bomboli, c'è sempre in giro, sempre con leva. Se sempre da una batta all'altra. Con quale di lavori? In via Milano lavoro. Ah, quello che c'è la rotatoria. Via. Ah, già ho capito. Ogni tanto scendono anche da noi a portarci le bombole, quelle che non servono più. E il travaglio vai. Da Marci. Ah, sì. Ho capito. O vengono da noi o vanno da Cosmino, uno dei due, però la maggior parte vengono sempre da noi. Bomboli dicevi che no, cioè, ma le pagate voi? Penso che dovreste pagare lo smaltimento, penso, non lo so come funziona la procedura delle bombole. Sì, che bisogna buccarle. La valvola bisogna toglierne e lasciarle bonificare. Lo so. Anche un periodo via amici si bombo del rompimento di balle, ci portavano in deposito. Ed era un casino smaltirle. Ah, mi ricordo che un giorno siete venuti anche voi, avete fatto un bel carico anche, però con il camion nostro. E l'avevamo avevamo smaltite quelle bombole. Mi ricordo che era quello di via Milano. Io non mi ricordo che era dato, però perché non è venuto qualcuno? Era venuto il camion, aveva lasciato il cassone e voi l'avevate tutte quante messe dentro. Forse non c'ero io, ero in giro. Sì, forse le bombole dell'acqua poi per caso. Sì, quelle lì. Sì, che ve le siete prese. No, perché era un casino, era. C'era un casino, non ce ne volevano ritirare a cucie. E la buona cosa. Cosa dire? sennò succede casino anche se vengono a fare i controlli, perché vi trovano oltre il tot di quantitativo che dovete tenere in deposito e mettono contravvenzione. E che non lo so, ma ce la fai, scusi di tutto da Marcello, vai, può già dire. Così è. Beh dai, ci abbiamo fatto una chiacchierata, i saluti ce l'abbiamo dati, già ci sentiamo magari stasera se signor voglia di entrare. Dai, non c'è problema. Tanto ha già compreso che ancora non ve ne esce uno, ce l'hanno ancora tutti quanti con la sella lingua in fura. Dai, ci sentiamo più tardi oppure un altro giorno. Ciao Anto. Ciao, ci sentiamo. Ciao. C'è qualcuno oltre a noi tre, se c'è qualcuno che se ne è svegliato dall'embriagatura di arrivare a notte, avanti e su 10 che vuole entrare. E Natalina da Appezzi, auguri Natalina, buon anno, a te la Concetta. Dimmi lui due Appezzi arrivati Natalina, aiuti costretta a buttare a bocca a terra, vero? La tambura tambura, Eru. Buon anno a tutti. Lomoletta, buongiorno, buon anno anche a te. E beh, avanti ci sei dato. Oggi sono sveglio da più presto. Buon anno anche a Roberto, a te, a Natalino, a Concetta e a tutti. Anche a tutta la famiglia di Roberto, a tutti quanti. Sì, augurone Antonio, anche a te e a tutti i tuoi cari, dai. Ok, vai Natalino. Stavo salutando Antonio. Auguri Antonio, a te famiglia. Oi, adesso ci attendo, ma ci vede anche uno. E ho sentito voi! Ma Natalino mi ha scavalcato, ti sei permesso a parlarmi sopra Natalino? No, me ne guarderei bene. Mi ha sopramodulato coso, Anto, mi è più forte, perché io stavo parlando quando stava parlando lui o viceversa. Natalino ce l'ho vicino, ce l'ho. Infatti, no, ti rinnovo gli auguri, dai, pensavo, perché ti ho fatto gli auguri nel momento che stavo parlando lui non mi sono accorto. Auguri a te e a tutti i tuoi cari e ai tuoi familiari, dai, ok. Ho sentito Natalino prima di tutti, però tu di sotto vedi, ma da Natalino mi arriva un bel forte perché sono abito vicino, quindi. Certo, mi sarei meravigliato se, cacchio, se Natalino non mi schiaccia. Sì, certo, per forza ti schiaccia, però ti sentivo sotto. Ok, vai Natalino, Alfa 1. Vai Natalino. Scappa già, lo so già. Penso che anche io a Roberto lo schiaccio, cioè, da parte tua lo schiaccio perché siamo vicini Natalino. Non è che... Non c'è tanta carriera, ci arrivo a piedi a casa tua. Sì, infatti, siamo troppo vicini noi. Natali, chi è il più forte di tutti? Luca Del Monte, mi sembra, è il più forte che ti arriva. Tu non ho guardato. Quando è a casa sua, sì. È la casa sua, dico, non c'è per nessuno. Se Luca ma è portante, non parli con nessuno. Ti attacco pure io, non lo so, Oh, anche tu, come non detto. Beh, ma se parliamo di parità di potenza, ok, siete a Cuburone o non li scimo più? Ma voi siete tutti potenti, sono io che non ho potenza. Io posso parlare solo con 4 watt. Ma io ho messo la brittella con il connettore del PL. Signori, che fai lui? Cosa tu? Detto che c'è, se arrivi un bel forte da casa di Marina. Ma anche da casa. Da casa sono più vicino a te. So che sei più vicino a me, però non scherzi. Cioè sei un bel forte, no? Senti, Franco, gara, che ti guardi, gara. Sei basso, Fra, auguro neanche a te, come vai? Vabbè, Fra. Sto dicendo, Fra, perché sei così basso? Ah, per quello, dai. Ma che c'è anche Luca Flipper? Salino? Chi è che chiama? Avanti. Ciao, Natalino, come va? Saluta a tutti gli amici. Va bene, non ti ho riconosciuto però, Vabbè, certo, stavo sempre 30 anni, senza sentirci. Già lo credo che non lo riconosci. Ma chi sei, Bruno? Maledetto, già l'hai riconosciuto, Ciao Bruno, ben sentito, 73. Ok. Natalino, ho messo il termino in macchina, così ho comprato una di quelle Antonio che avevano fatto. Sto girando per la città, così ho detto che andrò a salutare gli amici. Sì, io entro poco, entro. Poi non è che sto tanto bene perché mi hanno operato il mese scorso e quindi non è che sto tanto bene. E sto entrando poco perché disturbo e quindi non è meglio evitare. Sì, che c'era Franco, vabbè dai, signori io vi saluto che mi stanno chiamando qua, ci sentiamo alle prossime, dai, salutoni a tutti e auguri di buon anno. E io ciao Natale, buon proseguo di giornata, auguroni di nuovo, avanti Antu. Ebbene, vai Luca, tutti sono pazzi, Franco ci sei. Sì, eccomi, scusate, io sono dovuto scendere un attimino a Cutia Capicolo. Salutone Natali, se ci sei in ascolto. Oh, scusami, scusatemi. No, non c'è problema. Bruno, ma tu dove sei? In movimento? Adesso sono qua, San Francesco. E sei bassino però sta arrivando. Sono ascolto. Ah, per quello. Ma a me mi ascolti, mi tiri fuori bene. Sì, per forza, ma sicuramente sono adesso più davanti, Ok, mi sembra ci siamo sentiti tempo fa, o sbaglio? Sì, io sono un po' più un po' di volte. Ho sentito un amico, non sentivo da anni, mi sono accaduto, sono stato salutare. Ok, ma Luca Del Monte non c'è più. Luca Ariello. ti sei tagliato con la sua mappa, no? No, scusa, sto contando la stufa, dai. Comunque Franco, l'ho aperta dietro, cioè aperta, l'ho staccata dal tubo, diciamo. E ho pulito tutto il bocchettone bene bene, e l'ho pulita e sono suonato. No, la devi smontare. No, adesso no, io l'ho pulita proprio dove c'è il bocchettone, dove passano i fumi, diciamo. E vabbè, niente, non ha suonato, dai. L'ho accesa, si è accesa, è partita la grande. Andare, avanti un altro, riprendi Roberto. Ehi, ma scusa Franco, ma tu normalmente uccidi con un'altra antenna molto più forte, ma sei sempre a canica con le donne lì? Scusa, non ho capito, dove sei? Ah, dove stavi prima? Infatti ho detto, strano che loro ti ascoltano forte e io ti sentivo basso basso, la radio è quasi 5, già ti tiro fuori, però il segnale è bassissimo, infatti ho detto, strano che loro, visto che è canica, ce l'ho di fronte e ti ascoltavano forte, anche quelli che erano in macchina. E io, ok, vai a tu. Cappa, ma che c'è oggi, hai visto lì? Hai visto un fogaretto di affollato di vento? Qualche piegamento di antenna ho visto. È un po' di freddo, devi dire, se che è vento. Cappa, ma no, che passano in tutti i canti di maledizione, passano. Sembra una gazzata, ma sono nel coso dove c'è il grattacielo lì, vicino, cazzo, passano in tutti i venti, passano. Adesso quella zona lì, penso da via Luzzatti in giù, ti caghi sotto quando c'è freddo. Ebbene, scusi, ce n'erano ieri dalle parti vostre, Antu. La guerra vera in Oga. Da te. Ma sono durati poco, c'erano furti, ne ho sentito furti, ma sono durati un quarto d'ora, non di più. A Natale ne ho sentito di più, hanno durato di più a Natale, però quelli che c'erano a Capodanno si sono fatti sentire, sembravano bombe. E no che ti ho tirato pure un'altra cosa io, più bella. Una cosa che fa ridere, dicono, butti di Capodanno vietati, e magari quando hanno messo il vietato, di vietato ce ne sono di più di prima. No, asciuga. È un mezzo imbecille che me l'ha fatta, Però me l'ha fatta talmente bene che si arrapica, tirava. Arrapica. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Eia. Ecco, sottore del controllo, ho sentito la vette. Forse l'ho già sentito ieri. No, dico stamattina, io ho acceso adesso, ho sentito Luca stava provando una radio, non so cosa stava facendo, e sono andato a quel momento lì un quarto d'ora fa e però non c'era nessuno. Non lo so, no. Ehi, ma già entra, magari. Un po' stanco, dai. E io rimango ancora un pochettino, poi devo andare a casa da mia sorella e mio padre, dai, facciamo pranzo di lì. Ok, vediamo Franco se ci c'è ancora, anzi prima Bruno, avanti Bruno. Ok, stavo pensando lì, io abitavo a Monte, però non fa, io pensando, tutti non rimane, c'è qualche cosa, ho fatto pensando, adesso mi è venuto a passare all'altro dolce, casa della mia compagna. Oh cazzo, c'era una guerra, anche colpi di pistola, anche il mio vicino di casa, sicuramente era molto vicino perché c'è quella pistola più comoda. Una guerra cazzo, dove stava addosso cazzo. E mi date la testa anche a Marco che non abbassi troppo l'arma e ne butta qualche finestra, c'è qualcuno dentro. Ah, adesso una salve, non c'è niente. No, lascia perdere, non è una pistola salve, che ti dico caro, dove tutto. Io ho giocato una vita. Non so, quando ti dico che ci sono, sta tranquillo. È anche molto vicino a casa, dunque è anche pericoloso. Io sparo solo a salve, state zitta. No, non ammazza nessuno, no, ma fa un casino. Io so però, se sei se non ti aspetti, vabbè, alla veloce, io non aspettavo, ma c'era una guerra io no. Ma poi c'era un tipo di botte, aspettando, non un po' forte, ha sparato 4-5 volte a 60 di persona. Ma quando facevano scuola del comunista c'era una bomba lì. E ci manco io adesso, ci manco, ma adesso mi sono trasferito da questa parte. Se no, sotto Gaza c'era la polveriera, c'era. Oh, io... casino, io sono andato a buttare la pedoccia, guarda, la guerra, io ci ero l'anno scorso che abitavo al monte, cioè, in pochi pezzi e basta, a pochi minuti e sparivano, li sentivo lontananza, ora ho capito la guerra dove arrivava. Non lo sai che è così, senza mai pisate dolce, in chi vive la guerra, non vi basti sotto, no, no. E però ti ripresenti questo quello spara anche a questo turista con una pistola. E la direzione di una pistola molto grande, 5-6-7, anche dopo un calibro nuovo arriva anche dopo 5-6. E quello lì abbassa il tiro e tu sei affacciato. A proposito, sarebbe un attimo. Non sarà più faccia una tipa che era affacciata con una pistola. E mi te lo stavo per dire, strano che a Napoli ancora non hanno ammazzato nessuno. Vabbè, e comunque c'è il contatto per più di tutti. A Napoli sono allucinante, cioè di lì il cacchio fanno una gara a chi fa più rumore e chi ne butta qualcosa, perché di lì mettono le candelotti di dinamite, non mettono per tardi. Io mi sono un po' di sono direttamente, non c'è anche altro rispetto. Vabbè, riprende fra ancora ci sì. Ehi, riprendo io, ciao Fra, ben sentito, buon proseguo di giornata, dai, avanti Anto. Ciao Fra, ce la risentiamo, buon proseguo di giornata. Lì a Napoli, fatene il casino un bel, fatene. Ciao Fra, buon pranzo, dai, alla prossima. Allora, qua a Santa Maria di Pisa, bombe, poi fuochi hanno sparato. Sai che qua c'è la piazza, rimbomba ancora di più, proprio sembra, se no c'era la guerra. Comunque, ciao Fra, ci sentiamo, adesso non siamo più vicini di casa, non siamo stati per tanti anni, allora mi devo andare. Adesso ho fatto qualche rotello, la terolce. Come abiti la terolce? Allora, lo sai dove? Dove c'è la coppa sulla via Cesare, come si chiama? Dove devi stare davanti? Sai la Madonnina dov'è? La parte bassa per la prima. Che è bello, va. È bello, ma io ero abituato a quei tempi di qua. Il quartiere popolare era anche mio, al mondo non è che c'era. Però è un altro tipo di movimento, di casino, di giallamento, di capito? E guerra, e movimento di tutto. Sì, ma già posso ripetere. Ho frequentato la città, però è bello, bello perché almeno non è bello. Avanti, c'è qualche altro. E alle tour di Santa Maria di Pisa, scoppia, ce n'erano ben gara e cose, ne hanno scoppiato. Appena detto che per la guerra. Pisa, la fine non sta scolando il telefono. Luca, vai tu. Ma già, io ci ho abitato per 36 anni lì, e non lo so che cosa è. Ma tu eri alla Terolce, non Santa Maria di Pisa, tu? Ho abitato sempre alla Terolce. Ehi, vabbè, la Terolce, cacchio, già circola qualche petardo e qualche arma, già circola. Tutto circolete in Kiwi. Anche su a Carbonati, mi dillo a Claudio, io sentivo ieri notte delle bombe, ma che cacchio stanno scoppiando? Delle cose proprio, di quelle scoppi potenti che poi senti silenzio dopo che hai scoppiato quelli, non senti più niente. Tipo vibrazioni, buh, tipo quando ti scoppia una bomba, una mina. Casino ci vuole, casino. Ieri notte qua vibravano anche i tavoli, vibravano. Avevo fatto musica. Prova ad andare verso Piazza Attola, che di lì, con le piazze chiuse, che di lì che sarà una vibrazione, tutti i palazzi che ci sono intorno vibrano. Sì, già, ce l'ho vicino Piazza Attola. No, qua abbiamo fatto anche musica, abbiamo fatto ieri notte. Perché io ho l'impianto professionale, e quindi ieri ne ho sceso, c'era la casa di quello di fianco che vibrava, tutti i mobili vibravano. Ma ha detto casa tua o in terrazza? Sono casa mia. Picchia, che c'è bisogno di mettere un po' di potenza. Io non c'ho quelle cagate che vendono al supermercato. Per quello ti sto dicendo, se c'hai impianti professionali non è che sia necessario da tua casa di tirare 500 watt. No, va bene, soprattutto cazzo che hanno vinto due brindisi, allora sono ancora più, pompa ancora di più. Vediamo un attimo di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare. Io aspetto ancora qualche minutino e poi devo andare via. Avanti su 10 che vuole entrare, un secondo di bianco, lasciamo. Tanti auguri a tutti, buongiorno e buon anno, dai. Buon anno già, buon anno. Buon anno anche a te Gianni, dai. Ok, c'è anche Luca, avanti Luca se hai sentito qualcosa, a Gianni, e c'era Bruno che era al telefono però. Ciao Gianni. Ciao Bruno, tanti auguri, buon anno, ben sentito. Ok, anche a voi, mi ha chiamato adesso, stavo risolvendo al telefono. Allora, grazie. Cappa, già l'hai visto il video? No, a tu, non sapevo nessuno al telefono, stavo pulendo. Cappa, ogni casino, quello lì a mezzanotte mi... Poi alla fine, dopo lui, dopo mezzanotte e mezzo, mi ha suonato il campanello, quello là che gli stavo rintronando la casa, ho detto dai, è fatto, e vabbè, dai. Già, ci sentiamo, sta mettendo un attimino la vecchia porta. Ciao Bruno, ben sentito, vai Gianni. Sicuramente col telefono. Ha salutato Bruno. Vabbè, dai, già. Sicuramente si cambiate saluti. Saluti Bruno, anche da parte mia, dai. Che ha chiuso, dai. Cosa volevo dire tanto? Ma con chiavetta tu, col computer, come c'è la musica? Col computer, con la chiavetta, mixer, tutto attaccato. È un impianto professionale, non è mondetta, no. No, ci mancherebbe, non sto dubitando di quello. No, è come che uno al baracchino si compra un keyboard, è la matessa storia. Eia. Ma tu chi era tuo padre che faceva il service, o tu? Babbo. Ha fatto per un bel di anni, no? Per un bel po' sì. È un lavoro di fatica, è quello, cazzo, ogni sfacchinante. Non è tanto ascoltare anche la musica, dove devi piazzare e poi ne devi smontare tutto, un travaglio. Devi essere un grande professionista per fare quello. Ti deve piacere, dai. Ma poi sono sempre orari, finisci tardi, la notte, cacchio, perché i concerti finiscono tardi. Devi rismontare perché poi l'indomani c'è un altro paese da fare, torna a casa. Io c'avevo un amico, alla fine ho detto, basta, non ve la butto più. Ne ha fatto tanti anni, alla fine ho detto, mi sto rovinando. Così è, da chi ha lavorato, da Alberto, no? Mi sembra di sì, stiamo parlando di, aspetta un attimo, che si chiama Antonello, vai, non me lo metto il coso, non mi ricordo neanche il cognome, era il padre di un ragazzo, già lo conosci sicuramente perché a Sassari ne ha fatto un bel di cose, di queste affari qua, di luci era, le piante di luci però lui lavorava. Lo so, il suo travaglio, quella è pesante il suo travaglio. Ti deve anche piacere, non è solo un lavoro. Già lo so, cazzo. E a me piacerebbe come tecnico del suono, perché sono appassionato, tutte le regolazioni a fare. Diciamo qualcosina già riuscirei a fare, perché anche qualcosa. Cappa, chi è a fondo scala qua? No, ti dico la verità, è bello. Dimmi che deve fare anche dei corsi, non è così, no, cioè se ti piace davvero devi fare dei corsi per essere, perché è roba molto sofisticata. Sì, tecnico del suono è vero, ma il corso devi fare anche se piatti solo il palco, tutto per la sicurezza, tutte le normative, eccetera, che è un lavoro pericoloso, ogni tanto ingaggi da creduno, non l'hai visto? Perché sono degli imbecilli, no? Quelle cose lì devono essere fatte alla regola d'arte. Già lo so, è una cosa, ma molte volte per la fretta, per cosa, per non andare a prenderti la cinghia di sicurezza, per non mettere bene i tiranti, lasci perdere. Succede anche al lavoro mio, molte volte non ti metti gli occhiali di protezione per la fretta e poi ti cade una scheggia negli occhi e ti vai giù. Ma non glielo devi permettere, soprattutto agli operai. Già lo so, non dirlo a me, andare con gli occhi aperti, per te e per gli altri soprattutto, perché la responsabilità è la tua. Tu credi a me. Alla fine tu, se tu sei distratto e quello a togliere finisce negli occhi, tu alla fine cosa ti vuoi fare? Già lo so, purtroppo. Gli incidenti capitano nel momento meno che te lo aspetti. Ho visto certe situazioni, gente che si è nata agli duri diti, certo che diventa, due persone che conosco sono diventate, c'è qua un occhio, una scheggia, l'altro si è nata agli un dito, non da me, di altri lavori, dai. Ovviamente tutti devi togliere la responsabilità, io gliel'ho detto e lui non l'ha fatto, deve dire così, cosa fai? Ma noi quando diamo le attrezzature di protezione io mi faccio firmare la dichiarazione di ognuno, ti consegno occhiali, guanti, cosa cazzo c'è poi, la mascherina, tutte le attrezzature che devono fare per quel tipo di lavoro, perché noi abbiamo le schede di sicurezza per tutti i lavori, le lavorazioni pericolose, e lui te lo deve firmare, poi se non l'ha data sono problemi suoi, no, tu me l'hai firmato, io ti ho controllato, davanti a me lo devi utilizzare, poi se lui mi gira e se ne ragaba, purtroppo molte volte non me la controllare, ma noi ci stiamo molto attenti a questa cosa. Capa, ma fate bene perché poi sono casini, cazzo, bene i chicci, in officina rompiti gli occhi, mamma mia, Roberto. Non lo dire a me che noi, e proprio quando, oggi cos'è, venerdì, martedì è venuto questo ingegnere che ha fatto l'aggiornamento del coso di sicurezza, di tutto il piano di sicurezza, e mi ha detto guarda che devi aggiungere anche questo, devi mettere, cazzo, ho detto ma come mai, dice questa normativa è uscita a novembre, perché anche lui ha fatto il corso di aggiornamento, come ingegnere mi ha dovuto fare un corso di aggiornamento per la sicurezza, e poi mi ha fatto aggiungere delle modifiche al coso, di ogni apparecchiatura, per dire, c'è una moletta macchina, deve indicare la marca, data di produzione, tipo di omologazione, vabbè devono essere tutte omologate, e poi ogni mese devi fare le verifiche e scrivere sì, tutto efficiente, tutto a posto, e devi annotarle in un libro, tutte queste cose. Le saldatrici ogni settimana devi indicare tutte le operazioni che hai fatto, di verifica, che i cavi elettrici, che il filo continuo esca bene, che non ci siano perdite di gas, quello ogni settimana. Roberto. Che avanti. Claudio, va. Dammi un controllo del radio col microfono normale del Pony, bene va? Sì, va bene, però la voce è un po' cupa, ti ascolto benissimo, però è cupa la voce. Questa è la capsula, posso cambiare la capsula, questo è il microfono normale, capito? L'importante è che mi ascolti bene. Sì, no, la voce è chiara a 5, magari non è la solita tua, però è comprensibilissima, nessun problema, rimane un po' cupa rispetto all'altra, un po' tagliata di frequenze acute, dai. Vabbè, cioè non è la mia, è normale che non sia la mia normale, no? Quella che sento sempre, sto usando il Pony col microfono originale suo, capito? Avanti Anto, riprendi, dai. Io ti sento normale, non è che ti senta chissà che cosa, normale. Però va bene, cavolo, la pipina va bene. E quando un microfono è normale, cosa deve essere? Deve essere normale, no? Questo è il suo microfono originale, anzi, non usciva per niente, gli ho dato appena appena di LC, come mi ha detto, come mi ha mandato lo schema a coso, Gianni, capri 2. Va bene, l'importante è che adesso funzioni anche il microfono normale, dai. Va bene, dai, vi saluto, ci sentiamo dopo, grazie del controllo, avanti e buon anno a tutti. Buon anno Claudio! Ciao, ciao, buon anno anche a te, dai, cordialità e saluti anche a casa. Grazie, grazie, buon anno a tutti voi, dai, ci andrà bene. Vabbè, augurone, dai, l'abbiamo fatti ieri, ci sentiamo, anche io adesso devo chiudere, devo andare da un'altra parte, dai. Ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Gianni, c'è Luca, se c'è ancora tutti gli eventuali su canale 10, QRT da parte mia, se mai ricoincide ci sentiamo stasera con calma, buon proseguo a tutti, ciao ciao. Ciao Robè, ci sentiamo, buona giornata. Ciao, ci sentiamo Robè, buona giornata. Ciao. C'è scritto per toccare da LC, c'è scritto LC, c'è scritto nel trimmer, cosa c'è scritto? No, questo è radio, cosa c'è scritto, non c'è scritto, devi essere pratico, a me mi ha mandato lo schema originale, la coppia mi ha fatto la foto su WhatsApp già nei capi 2 e lui c'ha tutti gli schemi, i manuali eccetera, capito? No, non ho vestito nulla, no, tanto non è cosa da toccare questi perché sono cose molto molto delicate. capito, sono andato proprio su quello che mi ha detto lui, dove mi ha fatto il segno con la foto, come da manuale, gli ho dato appena appena, ma proprio un girettino, perché è proprio una minima parte che queste radio lavorano così, e adesso sta funzionando anche il microfono normale, prima manco usciva il microfono normale, capito? Quello da tavolo non te lo faccio manco sentire, se no ti spaventi, mi dici stai usando il Kenwood. No, non te lo faccio manco sentire. Mi interessava che funzionasse il microfono normale, funziona bene, perché nel caso devo venderla c'è il suo microfono originale che funziona bene. No, perché c'è una radio qua che voglio aprire l'EC, però non so come si chiama. Devo guardare lo schema elettrico, devo guardare. Come bisogna fare. Devo guardare su internet. Io non so neanche di che radio stai parlando, io qua sto parlando della radio del 1960, quindi non ha niente a che fare con quello che devi fare tu. Queste o sei pratico e sai dove mettere le mani, sono le rovini. Tant'è vero che io mi sono rivolto a Gianni, che è pratico, queste radio le metti anche a posto, e praticamente ho fatto quello che mi ha detto lui per far funzionare il microfono normale, ti ripeto, perché il microfono normale era talmente basso che manco usciva la voce, adesso sono a un palmo e va bene, dai, è un microfono normale, va bene. Gianni, mi ascolti bene tu? Gianni? Scusami che sto ascoltando un messaggio. Ho detto, mi ascolti bene col microfono normale, il Pony? Sì, non ti avevo riconosciuto all'inizio, ma già ti ascolto bene. Va bene, dai, non c'è problema, ok, passo con l'altra radio, Anto, dai, dammi il tempo di mettere a posto qua, ok? Non ti preoccupare, oh claro, non ti preoccupare. Ebbene, già, fatto. Accendo l'altra radio, ma... Ora, 1, 2, 3, prova radio, prova. Cappa che ti ascolto. Com'è la radio? Buona? È un bel forte già. Hola. Io sono con 4 watt. Bene mi senti? Benissimo, tu, benissimo. Cappa. No, poca potenza ho messo, già va bene così. Poco fa c'è già l'altro. Adesso ho acceso questo. Già andava così. Cavallo. Va bene. Ma cosa vai? Pure un BDB attaccato vai. C'è un blu. Ecco, io senza BDB. Senza BDB ci cocco. Si vede già. Si vedi? Vabbè, comunque ce l'ha bene lo stesso. Così è 9 watt. Non è meno, ce l'ho a 5. Perché l'ho abbassata. Ah, io ho 4 watt dell'apparecchio omologato. Ne ha già caccato tanto. Non occorre, siamo vicini, cosa lo ponga a fare? Abbiamo mangiato, arriva da lui. Sì, abbiamo mangiato lo zampone e poi ci siamo divertiti. Avete ballato? Un pochettino. Già va bene. E chi si ricorda, non te li tu? Ah, che poi alla fine a mezzanotte e mezzo mi ha suonato un campanello e stavo ritornando la casa. C'è mezzanotte, ci avevamo fatto gli auguri e basta. Poi a mezzanotte è finito così? Sì, poi a mezzanotte e mezza avevo già finito. Adesso ne azzocco. Con te impazzisco. Sì, beh, non stiamo parlando di GP turno, stiamo parlando di roba di un certo livello. Cazzo, ho dovuto metterlo un coso perché giustamente da quando pompa giustamente una cosa, come ti si chiama? Ma la luce, cazzo, io ho dovuto mettere un pesino sopra perché stavano ballando. capisce, però se so capire. E quando l'ho metto a tutto il volume non resiste nemmeno. C'ha a che fare 300 quattro di uscita, quindi a mai da te. Poi c'ho il computer con le casse professionali, poi c'ho l'altro impianto con la casa con la che si illumina, cioè io ho tutte, io ho tante cose, quindi c'ho diversi impianti là. Se 300 watt, ma 300 watt davvero, però no, non roba così, no. La gascia pensa un trono, pensa con una cosa del genere, cazzo, c'è di capo in casa, cioè di capo, io non esco di capo, ma niente, un barazzo, cazzo, è una cosa che non si crede, si tremano anche le cristalliere. Io ti dico che se lo metto a tutto volume, poi devo stare attento quando apro lo sport della cristalliera, se non li fare tutti i bicchieri, che ha tutti i gatti così ad avanzare. Cappa, dalla a me che te lo svetto un pochettino. Sì. Ho fatto fare il mobile da Giulio, mi fa con lo stereo lì. E va molto, molto bene. Io stavo ascoltando Gianna Nannini, cazzo, tutte le canzoni, Notti Magiche, Profumo, tutte quelle canzoni lì. Ascolto, anche quelle lì. Ma non hai bocca a manetta, il suo stereo? No, lei qua è un casino. Se non vuole ammazza, diciamo ai carabinieri. Io già vorrei buttarti giù un cazzo dalla finestra che ti porti. Ma in un condominio anche bisogna sapersi comportare, non è che puoi fare quello che vuoi, no? Sì, la metto, la musica, però non a tutto volume. Siamo a tutto volume e vibra tutto. Davvero comincio e poi non vedo dai vago, cazzo, c'è quel cazzo di cosa, c'ha le bobine a ceramica, spinge che la mala sorte. Vediamo invece come va il microfono di tavola. Oh la mazza che te ne varia. Pompa. Non c'è nulla che non va bene, no? Gappa, dai. Questo è il microfono delle Green, originale, senza essere toccato, capsula originale, tutto gappa veloce, toccato solo le leggi. Bene, mi ascolti già. Ma qual è quello che non funzionava Roberto? Quello che? Che c'era Roberto e non gli andava bene. Certo, non funzionava, certo, era, non funzionava. È nuovo, a dire nuovo è troppo poco. C'ha tutto in originale tranne che la scatola. Però c'era l'LC chiuso, capito? Proprio chiuso completamente. L'ho messo a metà, come mi ha detto Gianni Capri 2, ecco qua. Già va bene. Ma lei ha riparato il microfono, non ci aveva nulla. Quale microfono? Quello che stai usando adesso, tu l'hai riparato, visto che non funzionava la roba. No, funzionava, non ho toccato niente, le ho messo le batterie e basta. Lo usavo, non c'aveva niente il microfono. È nuovo fiammante il microfono della Ghi. È un po' con gente mi sta corteggiando perché c'hanno la Gain quinto e le altre radio della Gain, ma non hanno il microfono da tavolo, capito? Ma lo vogliono pagare anche bene, ma non lo ho perché l'ho abbinato, c'ha la stessa connessione del Pony, è originale e quindi lo lascio stare lì. No, non c'era niente, era questione di LC, capito? Non andava, il microfono normale non usciva neanche. Adesso hai visto come esce bene? Sì, va bene, la radio liscia perfetta. Doc. La doc. E ce l'ho a metà lo slider, perché questo microfono c'ha lo slider, capito? Ha lo slider. Così è a metà. Così è poco più della metà. Ora. Ma va alla grande, cla. Alla grande proprio. E questo come va? Come va questo apparecchio? Io ti sento leggermente saturo. Ma è impossibile che la tua situazione è attivata, attaccata. Non c'è c'entra niente l'uscita, l'ingresso deve regolare, Gian, io te ne attacco mille, vuoi che te ne attacchi mille? Te ne attacco mille, non satura. L'ingresso ti ho detto deve regolarti, tanto non ti cambia niente. Se tu le dai 3 watt, sempre 200 te ne dà, a meno che, non lo so, io con l'RM Italy ti ho detto, l'RM che è l'805, non è il 503, ok, io le do 3 watt, e tu non ti accorgi se io sto modulando con l'iniera attaccata. Guarda, adesso è al minimo di infatti, guarda come sta andando. E allora, guarda, c'hai picchi positivi bellissimi, la radio è uguale come quando sei staccato, ma se tu non mi ascolti non serve niente, anche se in uscita ne hai 300, 500 e 600, chi comanda i lineari è l'ingresso, tu più ingresso le dai e più si mangia la radio, diventa brutta. Cara gara! Ma così però mi dà di meno un quarto, mi dà 20 invece che 30. Accidenti, gatto, proprio, guarda, il segnale manco mosso si è, manco mosso si è. Tu preferisci quindi avere 10 watt in più e la radio che fa schifo, vedi tu? No, no, quella no. Ciao, ragazzi, va bene, dai, io vi saluto che vado a mandicare, che c'è una, e vado a preparare la studio, dai. Andate, ragazzi, statemi bene, un abbraccio e buon anno. Speriamo che quest'anno sia migliore dell'anno scorso. Ciao ciao! Ciao ciao già dai, e anch'io vi lascio, vado dall'altra parte, dai, ci sono un sacco di roba avanzata da ieri, devo vedere un po' cosa vuole mangiare la truppa qua. Il mio genere ancora non è arrivato, dice che è andato a prendere le paste, vabbè, ancora rotti, intanto non batte ci abbiamo mangiato. Anto, ci aggiorniamo stasera, ciao anche a Gianni, ciao a tutti quelli che sono in ascolto, buon anno a tutti, io ve li ho fatti al telefono e continuo a farveli qua. Buon anno a tutti e speriamo che sia meglio di quello dell'anno scorso. Ciao ciao! Ciao ciao Claudio, ciao, buona carica quando la fai, ciao a tutti, ci sentiamo, alle prossime. Ciao ciao, ce la risentiamo già. Ciao Cla, buon anno sempre. Ce la risentiamo. Ok. Speriamo ci arrivi anche cosa di buono. Ok. Ciao ciao. Ciao Benifre. Ciao Benifre. Ciao Benifre. Sto preparando qua, dai, già tutto pronto. Pasta e salmone a pranzo. No, io c'ho solo la pasta e salmone, me l'ho mangiato ieri notte. Cosa Cla? Ho solo la pasta al salmone, me l'ho mangiato ieri notte. Ah, poi è proprio l'agnello, ci sono i gamberi, ci abbiamo, stiamo bevendo questo Astri, buono, eh. Me lo sfumate il secco, buon come piace, adesso poi ci apriamo la chenta. Adesso vado e bevo acqua io, dai. Ciao Lucarie, buon anno, un abbraccio a te, a Marina, a tutti e già ci aggiorniamo stasera, dai, che devo andare in cucina, ciao. Grazie altrettanto a tutti voi, ciao ciao, buon pranzo. Ciao, io lo apro da voi, ok. Ciao Cla, buon pranzo. E adesso tra un po' si fa da mangiare. E apro lo spumantino a vedere cosa dici. Come? Via! Arrimano, sì, cazzo, ma era un fumo. Cosa? Un mezzo fumo arrimano a notte. Io ho bevuto un po' di spumante e poi crema di whisky stavo bevendo. Per ammazzare i microbi. Chi su cura il coronavirus, mi solo che non vi credere. Non ci crede la gente, no. Quello lì che cura anche il coronavirus cura. Lo so, sì, via, per carità. Cappa, lascia i cagli, io ne ho sentito tante di cagate. Lo sai che ho scoperto una cosa, che da passato c'è le difese immunitarie, no? Anche se tu ce l'hai non li fai niente. Oh, ma arrivatemi, può darsi che ce l'abbia avuto? Sì, senza dubbio. Appa, l'abbiamo scoperto ieri. No, cioè, chi ce l'ha avuto c'ha difese immunitarie, se tu virai non li fai un cazzo. Assolutamente, non li fai niente. Vabbè, se sei debole è un casino. È un casino, vabbè, dai. Comunque se n'è andato quest'anno di merda, speriamo che sia entrato l'anno buono, dai. Comunque come una giornata fredda oggi non c'è male. Già lo so già. Freddo, beh. Vabbè, tu già non è freddo in chi, tutto acceso, eh. No, è fredda la zuppa, però qua su io sto bene più. Se scendo giù tocca riaccenderla. Ma qua su io sto più bene. Ho capito. a Giugavit. No, no, l'abbiamo accesa poco fa, questa pulita. Ma lo riscalda un po'. Beh, certo che riscalda. È a pellet. No, io sto molto su, giù ci sto un po' di meno. Cioè ci sto, ma io preferisco stare più qua perché c'è più caldo. Se farò io sono più freddo, tocca tendere la ciuffa. Beh certo. Papà, guardate, quando sono a casa gioco sempre in occhio. Nel soppacco, da, non so, ma qua c'è sempre calore, si sta. Anche il poco si sta più meglio di giù. La sai che bisogna rispiffere, beh. Però che tira un vento, ma la giustizia, la matta tiene in aria, poi c'è quest'albero grande, fastidioso. Anche in rondaglia. Ehi, Antu, mica lo puoi tucca. Ci sarebbe voluto, sai che cosa? Come si chiama? Quello del coso lungo che ti il filo e tagli i rami, quello lì. Già lo vendo, non costa neanche tanto. La motosega, dai. No, quella è una motosega. Questo coso lungo che è allungabile con una corda, tutti e tagli i rami. Ah, ma non fa casino. Eh beh, non si può bucare. Già, adesso vedo quanto costa. Già, io ho visto anche una catena filata a me, presa coi guanti così, tra, e tagliava. Adesso controllo, aspetta. Già, te lo compri alla cua, bisogna venire un cheque piano. Ha stato di fronte a me, ha stato già in terra, chissà, però. Ha stato sopra via Milano, aveva pigliato chissà fare. Io ce l'ho me, solo che è di babbo. Allora c'è una corda di 3 metri e mezzo, costa quasi 20 euro. Se la piglia il luci, non piglia ne attagli. Se c'è questo sventatuio telescopico professionale, 100 euro costa. E cosa conviene fare perdere quello da 20? Lì ci metti gli mette sempre un tubo allungabile. Vabbè, ti arrangi come meglio puoi, ma nero trappe. Pensavo che costasse così un bel, minchia. Cappa, ma ci sono anche quei cose, molte volte li mettono a ridermi. C'è la catena della motosega, c'è il motore, c'è, è elettrico. Tu lo prendi così, non costa neanche tanto. Tu prendi così, trani le lampe, ci sono anche a batteria molte volte. Ah, ma mettersene, è un albero altissimo, è un albero un bel grosso. C'è tanti anni quest'albero. Non credo che sia secolare. Dai, Antonio, ma di qua se vuoi lasciare che devo andare a preparare la pasta. Dai, ci sentiamo stasera, ciao, buon pranzo. Ehi, va. Prepariamo pure noi. Ciao, Lu, ce la risentiamo. E tutti gli ascoltoni, ciao.